Il sabato del villaggio. Terza ora del sabato del villaggio in diretta dal Parco Valentino di Torino, qui dal Salone dell'Auto. È la terza ora, quindi è quella del, lo diciamo sempre, del preaperitivo, quella che ci porta verso la serata, la terza ora più bella del sabato, ed è quella di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, è arrivato Daniele Bellasio. Quando andiamo in giro, quanto mi piace. Ti piace andare in giro? Sembra che siamo importanti. Poi in questo posto guarda che stupendo. Questa postazione è bellissima. Bellissimo, il posto è bellissimo. Il parco è bellissimo. Bellissime. La postazione è bellissima. Ma dove sono i perturbazioni? Perché io sono venuto solo per quello. Sei arrivato, sono appena andati tanti via. Non so, sotto il tavolo. Ti vi volevo incontrare. Mi avevo appena postato anche una foto. E invece non ci sono loro. E invece guarda. Allora scusa, adesso lo svegliamo anche. Scusa, ma cos'è sto fatto? Adesso svegliamo gli ascoltatori. Però dai, fai quelle robe da bravo conduttore. Et di Bellasio, signor, Marta tre Cagnola. Anni non ancora imparato. Cancelletto ISDV. Però ho imparato ISDV che all'inizio sbagliavo. Cancelletto RadioTube. Ci sarà un hashtag del salone qui del Parco Valentino? Uso l'account. Io li nomino con l'account che è Parco _ Valentino. Fammelo controllare, mica l'ho detto sbagliato. Sì, no, adesso . Lo sto guardando anch'io nell'opuscolo dove c'è la mappa. Ma intanto possiamo dire chi c'è con noi. Allora, quando abbiamo saputo che saremmo venuti a Torino, abbiamo detto chi possiamo invitare in studio, perché a me piace, guarda, te lo dico, quando facciamo le esterne mi piace avere gli ospiti in studio, perché così ce la chiacchieriamo. Sì, così. È meglio. Appunto, meglio. Ho chiamato i Perturbazione perché sono bravissimi torinesi, abbiamo parlato anche un po' di Torino, e poi ho detto, Daniele, ma chi chiamiamo? Macario non c'è. No, Macario è stato in lizza, Tu hai sostituito Macario, che però purtroppo non è più in possibilità di partecipare, diciamo, in diretta. Quindi ci siamo dovuti accontentare. No, possiamo trattarlo male perché è un amico. Perché è un amico di Spotorno. Allora, racconta. Allora, Daniele. Lui et Roby Pava, con la I greca, non con la I di Juventus. Con la I di York. Con la I di York. Purtroppo è juventino. Ma diciamo che tanto. Diciamo che qua è facile che uno sono sia tutti granata, abbastanza. Io li vedo. No, beh, guarda sono un po'. Tutti granata. Non lo so se facessimo. Il signore è passato, ha detto no. Ma ci sarà un granata. C'è un granata che può alzare. Tu fai il granata. C'è Gabriele Carrer che saluto. C'è qualcuno granata? Non c'è neanche. No, hai trovato tutti i juventini. Mi dispiace. Vabbè, allora rimediamo subito. Visto che c'è in scaletta, no, ma diciamo anche cosa fa nella vita. Diciamo cosa fa nella vita Roberto Pavanello, il tifoso della Juve. Il tifoso della Juve. E poi alla stampa tu ti occupi, hai la responsabilità editoriale dei video, quindi del visual desk, non proprio di tutto. Esatto. Che cos'è? Ma è tutto ciò che passa attraverso audio video sul sito, visto che i giornali stanno provando a capire in quale direzione andare. E si sta puntando anche su questo ambito qui, quindi per cui, come già hanno fatto altri giornali, anche noi alla stampa stiamo provando a investire tempo, energie, risorse, idee su questo settore. Quindi sei un mio diretto concorrente. Stavo dicendo, ma il fair play di questa cosa di Bellasio, interista, che invita uno juventino, e Bellasio, responsabile del nuovo sito del Sole 24 Ore. Ma che bel sito nuovo! Ma che lui non lo può dire, perché è responsabile, elegante. Molto elegante. C'è più sole sul sole24ore.com. Molto ti piace elegante, com'è? Molto chic. Bellissimo. Io in quanto ospite vuoi mica che dica qualcosa noi abbiamo di diverso. Che fair play, responsabile del sito del Sole 24 Ore, sì, che mi invita è il molto visual più del coso della stampa. Interista. Però comunque torniamo al fatto che qua sono tutti granata, perché tutti hanno alzato la mano e continuano a fare tutti no. Statisticamente stavolta, perché adesso noi, sai che la nazionale italiana, tu lo sai, no? C'ha come allenatore l'ex allenatore della Juve, che ha vinto quasi niente, peraltro. Non si capisce come sia diventato. No, scherzo. Non ce la può fare. Guarda. Ma infatti io taccio, lo lascio andare. No, però a te, Ventura, sta simpatico o no? Dì la verità. Ventura, il nuovo. Spiegate, il nuovo allenatore della nazionale. Vabbè, ma lo sanno. L'allenatore per 5-6 anni del Toro, che ha fatto anche molto bene. È un signore di una settantina d'anni. Sì. che è stato, guarda caso, in qualche modo il maestro di Antonio Conte. Ah, quindi perché Conte è arrivato, certo, al Bari dopo Ventura e in qualche modo ha continuato quel percorso tecnico-tattico impostato da Ventura. Quindi la nazionale mi resta torinese. Ma storicamente, cioè, quando la nazionale ha vinto c'era un blocchettino Juve, già se azzurra ci sarà, esatto, un perché. O addirittura col grande Torino ci fu un'occasione in cui erano 10 undicesimi del Toro e il portiere il 24 della Juve. Ma come stile ti piace Ventura? Come stile di comunicazione? Come fa le interviste? Come sta in campo? È sempre uno abbastanza diretto, che non è... Cioè, Conte non è che sia questa botta di simpatia. Non è Mourinho. No, beh, sulla simpatia Mourinho lascia perdere, che... Lo so, tuo contesto per te è dolente, esatto. Ti riprenderai dal triplete. Ma diciamo che Allegri ha un altro stile. Sto pensando allenatori della nazionale simpatici, cioè Berzot, no, forse perché? L'ultimo. Ma no, Donadoni, a me stava Prandelli. Ma sì. No, Prandelli, sì, anche Prandelli. E Trapp, perché Trapp era antipatico. Dai. Il problema è che vincono di più gli antipatici. Bravo, è vero, per infatti dire, lo stavo dicendo anch'io. Però alla fine vincono di più gli antipatici. Ma perché io faccio la stessa cosa con Marta? Ma cosa serve? Allora, voglio sapere, esatto, perché Daniele Bellasio vuole parlare di Ventura. Perché hai messo in scaletta un video. No, non l'ho fatta io la scaletta, l'hai fatta Cristian Goldoni da Milano, Goldoni, che abbiamo lasciato a Milano. Salutiamo. Sì, è vero. Abbiamo Marco Lombardo qua. Però che ci ha messo qui nel primo blocco che noi dobbiamo mostrare alla radio il video di Tavecchio che annuncia come nuovo CT Ventura. E lo dobbiamo guardare, guardiamo. Lo guardiamo alla radio, guardiamolo. Giampiero Ventura sarà il commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio dopo l'esperienza dell'europeo. I criteri che mi hanno portato a valutare Giampiero Ventura come persona idonea e uomo giusto per gli interessi della federazione sono stati molto semplici. Lui è un maestro di calcio. Che verve! Un ritmo. Anzi, veramente sfuochi d'artificio. Ma soprattutto il commissario tecnico. Tecnico della federazione gioco. L'ha detto un po' alla Berlusconi, che salutiamo, facciamo guri. Non so se avete visto ieri nell'ultima conferenza stampa di Antonio Conte prima del... Insomma. Che ha detto? No, niente, c'era di fianco Tavecchio che dormiva e sbadigliava beatamente. C'è proprio la tensione pre-europeo. A me piacciono gli europei, però, in generale i campionati in cui si va... Cioè le persone che abitano in Europa. No, mi piacciono i campionati in cui si va così con quella area del vabbè, sì. Vediamo. No, ma questa la finiamo anche così, questa volta. Non lo so, io so che sono entrata al supermercato l'ultima volta, c'erano le bandiere, i televisori, le cose, ma sembravano lì un po' per caso. C'è stavolta mestizia. C'è un po' di mestizia, però senti, possiamo scaramantica solo... Scaramantica mestizia. E abbiamo fatto un bel primo blocco parlando di calcio e ma non Pausini... abbiamo... Ecco, no, e non allora, abbiamo la tua cantante Pausini. Preferita, Laura Pausini, ha combinato una cosa che uno non se l'aspetta da una cantante ti pop melodica. In giro, perché io ho dei, non ho delle ruggini con la Pausini. Hai delle ruggini? No, non ho delle ruggini con la Pausini, non la conosco, diciamo che non la conosco, che non mai siete incontrata. Simili. Non so se hai capito che so anche le ragazzi, cose musicali. Ma ragazzi, che cultura ha Bellasio? Infatti non l'ho capita. Non sai che si chiama Simili Tour, World Tour, Mega Galattico. Torniamo a parlare della Juve per piacere. Non ti piace la Pausini anche te? Ma no, non mi piace, né mi dispiace. Non è nel mio orizzonte musicale. No, anche a lui gli piace la Pausini. A me piace in tutti i sensi. Lui comunque piace molto la Pausini. Allora, si è talmente emozionato che stava abbattendo l'acqua. Comunque la Pausini all'inizio di un concerto ha detto... Non lo diciamo dopo. Ah, eccola. Inizia subito con una polemica. Quello stronzo che ha scritto che stasera non c'era nessuno. Dito medio. Proprio tipo Cattelan l'ha fatto. Sì, Cattelan, non quello di X-Factor. Non Alessandro. Alessandro. Allora, ragazzi, io quindi dico insomma, la Pausini è rock. Però io posso dire una roba. Dilla. Però adesso la dicono un po' grossa, eh? No, facciamo che adesso diamo il traffico e la dico dopo. Traffico 17:15 traffico. Traffico, tra poco. Radio Tube. Allora la dico la cosa che stavo dicendo, ma sintonizzati che la sta per dire. No, allora, secondo me, allora, i cantanti devono cantare e i giornalisti devono scrivere, giornalare, devono scrivere senza avere timore reverenziale nei confronti di nessuno. Ho capito, ma perché dire che un concerto non c'era tanta gente se poi era pieno? Perché secondo me chi l'ha scritto doveva motivare. Adesso poi c'è stata, sapete che c'è stata tutta la caccia chi ha scritto cosa. Se questa persona ha scritto delle cose motivate ha fatto bene, se questa persona ha scritto delle cose non motivate non ha fatto bene. Io ieri sera sono andata a vedere i Pooh non hanno fatto il dito meglio a nessuno. E vabbè, che c'entra? Dobbiamo essere tutti come i Pooh, possiamo anche essere magari, come la Pausini. Magari. Allora, io non voglio i giornalisti... Allora, magari l'ha scritto Roberto Pavanello della Stampa. L'hai detto tu? No, io non ho scritto nulla. Io mi chiamo fuori da questa polemica. No, mi anche piace... perché a Torino abbiamo un certo stile queste cose. Esatto. Allora, non comunque, entriamo. Allora, giornalisti senza paura, senza timore reverenziale nei confronti di nessuno. E se invece non era vero, si tirano fuori i numeri. Poi, infatti, lei ha tirato fuori i numeri e la cosa è andata bene così. Ma noi voltiamo pagina. Allora, devi sapere, caro Roberto Pavanello della Stampa, che il nostro ospite è qui in questa bellissima, in questa splendida cornice. Fatemi dire buon pomeriggio ai radioascoltatori che non l'ho ancora fatto. È bello dire buon pomeriggio ai radioascoltatori. Io in realtà da grande volevo fare la radio. E poi invece? E la radio non ha mai voluto prendere me, quindi io pure. C'è stato praticamente costretto la Cagnola in ginocchio. Corrispondenza d'amorosi sensi. Succede spesso purtroppo con gli amorosi sensi. Ma allora devi sapere, caro Roberto, che dice sempre Bellasio che quando io ero piccola non mi dicevano fai la brava se no arriva l'uomo nero. Mi dicevano fai la brava se no arriva il garante. Il garante. Ma non so, un signore garante. Un tempo c'era, si diceva il grande vecchio. Adesso non c'è più il grande vecchio, c'è il garante. Perché io ho il terrore della par condicio. Esatto. Siamo sempre siamo in par condicio. Quando poi c'è il silenzio elettorale, proprio si impasticca per andare in onda. Perché sennò non riesce. Perché sono terrorizzata, mezza sillaba sbagliata. Noi abbiamo già detto Berlusconi. Ma era un fatto di cronaca. Ma no, ma perché in ospedale. Quindi dobbiamo dire Grillo, Salvini, Renzi. E abbiamo detto i quattro poli. Sì, che poi uno dice Renzi però non dice gli altri. Allora facciamo una cosa. Già io ogni volta che dico Torino diciamo anche la minoranza del così siamo a posto. Ogni volta che già dico Torino dico Dio, a Torino c'è il ballottaggio. Ma noi non abbiamo detto niente. Niente. Ieri sera c'è stato pure il dibattito a Sky. Cosa facciamo? Scegliamo una città e ma prendiamo uno un po' sopra le parti, no? Ok, prendiamo uno sopra perché secondo me ci sono dei simboli che non si schierano. Esatto, che non si schierano. Che non per si esempio, schierano mai. Delle bandiere, Francesco delle bandiere. Totti. Io sono romanista, quindi lui non si schiera mai. È schierato? Non lo dire, questo è grave. C'è l'occhio del garante, mandiamo subito l'audio. Mandiamo l'audio. Nel 2024 Roma si candida per le Olimpiadi. Tu che ne pensi che sei romano? Io spero che si possa vincere. Roma è una città bellissima e merita questa competizione così importante. Perciò da romano spero che riusciamo a portare a casa questi risultati. Se tu non diventavi calciatore, che volevi diventare? Se io non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto fare il benzinaio. Benzinaio perché mi piace l'odore della benzina, poi perché quando aprivi il portafoglio c'erano tantissimi soldi. Vabbè, ma quanto è carino. Però fatemi intervenire un attimo sulle dinamiche della comunicazione e della politica. Questo video credo che abbia più o meno un mesetto e guarda caso i riflettori su questo video sono accesi in questi giorni. Ma chissà Strano, come mai? No, beh, è ovvio perché c'è un candidato che non è poi così favorevole alle Olimpiadi. Non diciamo quale, così stiamo sicuri e tranquilli. Okay. Un altro che è sicuramente favorevole alle Olimpiadi e quindi è tornato fuori perché qualcuno ha voluto in qualche modo far capire che forse Totti votava uno di questi due candidati. Forse quindi era un prelievo pretestuoso. Era un po', lo spin elettorale che c'è in quei... Ma che paura, sto guardando col terrore, ma perché ho paura della par condicio? Ma adesso hai messo in scaletta tutti audio politici. Non l'ho fatta io la scaletta, l'hai fatta tu, adesso dalla colpa a me. Tanto adesso a me interessa solo la par condicio delle elezioni di Vimercate. Ma voi siete favorevoli alle Olimpiadi nel 2024 a Roma? Ma guarda, vai. Non lo so, un po' e un po'. Io par condicio sono un po' favorevole e un po' no, anche perché non so bene. Cioè, favorevole alle Olimpiadi e non a Roma, pure favorevole a Roma e non alle Olimpiadi. Esatto, certo. Però non lo scusate, non prima lo so. I perturbazioni, intervistate una giornalista discreta, pugnace come Marta Cagnola, hanno detto che uno dei meriti per cui questa città qua a Torino è cambiata, rinata, trasformata, migliorata, sono state anche le Olimpiadi. Bisogna vedere come le si fanno. Torino, cioè, tu mi insegni, non è Roma. Sì, vabbè, ho capito, però non ha un sacco di cose. Sabaudo, adesso va bene l'orgoglio sabaudo, siamo qui, però mi viene fuori. Allora, facciamo una cosa. Sai che a Roma c'è un quartiere, lo sai, no? Prati. Beh, quello sembra di essere a Torino. L'unico quartiere di Roma in cui non mi perdo, perché è squadrato sì, come Torino. Perché crede di essere a Torino. C'è Corso Vittorio, Gino Margherita, proprio esattamente come Torino. Ma noi, quando vai a Roma, perché è stato certo, perché hanno preso i funzionari. Ma ragazzi, storia è l'unica cosa, cioè. Vai Daniele. Allora, praticamente dovevano costruire, voi avete fatto voi sabaudi, che peraltro per tre quarti pure io sabaudo, avete fatto l'Unità d'Italia con modi un po' spicci in certi casi, ma comunque lasciamo perdere. Arrivati a Roma, Renziani. Basta, il garante. Basta, adesso devi dire tutti. C'erano anche i grillini, c'erano i berlusconiani, c'erano i leghisti, i Cavuriani, quelli di Fassina c'erano già. Tutti hanno fatto l'Unità d'Italia. Così allora facciamo una cosa, per par condicio, prendiamo un po' in giro tutti e due i candidati. Vai. Quelli di Roma. Partendo par condicio Roma. Di Roma, perché a Torino poi non ci fanno andare via. No, perché Torino, già abbiamo detto troppo Torino, paura già solo a dire le parole. Partiamo da Virginia Raggi, l'avvocato Virginia Raggi, che è la candidata del Movimento 5 Stelle al ballottaggio di Roma, che parla di... Perché non la facciamo sentire quella, la Raggi di Fiorello? Dai, mostriamo la Raggi di Fiorello. Mostriamo la Raggi di Nicola Fiore. Vai. Eccola qua. Pronto? Il Movimento 5 Stelle cambierà Roma. Destra e sinistra sono uguali. I vecchi partiti hanno ucciso la madre di Bambi e fatto affondare il Titanic. Ma che? Dico gli affluenti del Po. No, non ci servono gli affluenti del Po. Noi volevamo solo sapere se è contenta. Noi volevamo solo sapere se è contenta di questo risultato. Raggi. Potenzieremo la raccolta differenziata, da una parte i rifiuti riciclabili, dall'altra gli esponenti del PD. Sì. Dico una poesia? Sì, come? Dico una poesia? No, non serve. Allora, questa imitazione è piaciuta a tutti. Sì. Cioè, secondo me la Gabriella Germani è stata veramente bravissima, perché questa imitazione l'ho trovata straordinaria. Ma per par condicio, abbiamo parlato di una candidata, parliamo vediamo anche dell'altro. Vediamo che cosa estrae dalla scaletta a caso, Marta, per rendere facile. Non lo so, ma vai. Di che stiamo a parlare? Non lo so, ma di che stiamo a parlare? L'altro candidato. Roberto Giachetti. L'altro candidato. Del PD. Ora tocca a te. Il tuo voto è la linfa del cambiamento, il motore della rinascita, la lettera d'amore a una città abbandonata. No, ragazzi, fermi tutti. Ah, Francesco, ma di che stiamo a parlare? Ma io sto in mezzo alla gente a parlare dalla mattina alla sera di programma, di buche, di Olimpiadi. E devo stare a pensare alla lettera d'amore a una città abbandonata. Ma di che stiamo a parlare? Ma che sono, attore io? È una telenovela. Dai, Robè, vieni qua, dai. Ma fatemi il piacere, va. Questo è quello vero. Che è forse vero. Aveva tratto ispirazione, è stato scritto sui giornali, che non era proprio un altro spot. Non lo so. Allora, abbiamo garantito la par condicio su Roma, sì. Abbiamo parlato di tutti i candidati, siamo stati assolutamente con l'ansia del... Metti ordine. Quanto è difficile però in questo periodo parlare di politica? Senti, come... Ma a questo punto mi viene a dire che sarebbe quasi più facile non parlarne proprio. Ma cioè, guarda, ma senti, la linea cagnola. Infatti la prossima settimana noi parleremo di tutt'altro, sai? Parleremo assolutamente di tutt'altro. E c'è il silenzio. No, ma se non parli di... Noi dobbiamo raccontare il meglio e il peggio delle cose che accadono in rete. Tu che ti occupi di video su un sito di un giornale importante come La Stampa, sai benissimo che ha un video al giorno che c'entra con una litigata tra politici, con una... ci deve essere. Ma è politica? Questa è una bella domanda, ma insomma la politica, la comunicazione, i video virali, molto spesso diventano virali davvero comunque, non è che noi ne parliamo soltanto perché siamo appassionati in quanto giornalisti anche di politica. Ma poi c'è il video che è creato per fare parodia di per sé, quello invece che involontariamente lo diventa. Sì, sì. Che forse è quello più divertente. Nel passato ce ne sono stati che sono poi ogni tanto vengono tirati fuori ancora, esatto. Perché magari erano o involontariamente comici o involontariamente divertenti e sono rimasti proprio nella storia e ogni tanto vengono tirati fuori di nuovo. Poi siamo tutti lì bravi a rispettare la par condicio, il silenzio elettorale, io poi ovviamente con il mio terrore di qualsiasi autorità mi possa... Ma cosa voti, Marta? Cosa voti a Vimercate? Lasciamo perdere che c'è il ballottaggio anche a Vimercate, non si bene, può dire niente bene. Non si può dire niente. Da una parte c'è Vimer e dall'altra Kate che al ballottaggio si sfida. Che scemi Vim City. Quando io ho detto che eravamo arrivati durante il ballottaggio mi fa: ma perché ha più di 15.000 abitanti? Esatto, ma... perché io pensavo fosse, sai, come i comuni come Monforte, dopo vado a Monforte, lì c'è il turno unico, esatto, no? Prima sera, no, che no, tra... siamo grandi. E dicevo, noi siamo bravi, Ligi, rispettiamo tutto, e poi sui social network, esatto, vedi i giornalisti che fanno... ma com'è sto fatto? Io dico, ma come dobbiamo comportarci? Io sono stato già richiamato all'ordine in più di un'occasione, quindi mi taccio. Ah, perché tu sei di quei giornalisti che su Facebook, no, io lo so, te lo sto chiedendo, è una domanda retorica, su Facebook ti lasci un po' andare, diciamo la verità. Tendo un po' così a tenere il piede staccato dal freno. Diciamo che sei juventino, lo si capisce abbastanza facilmente. Però una cosa, vai. Su Facebook è una cosa secondo me un po' più meno formale di quanto non sia Twitter. Sì, lascio sì probabilmente. Su non, Twitter sì. Invece non, sì, faccio il tifo per la Juve, ma tendenzialmente sei non... più tecnico. No, non faccio il tifoso contro le altre squadre perché vieni massacrato. Su Facebook, visto che al limite litigo con Daniele Bellasio, sì, quindi esatto, anche si può anche esagerare un pochino. Ma questo però è una cosa anche strutturale dei due social network diversi, uno completamente aperto, uno l'altro il cortile, tutto l'altro la piazza. Bravo, esatto. Sì, e tra l'altro è un cortile dove tu decidi chi entra a casa tua. Per no, cui... io mi sono arrabbiata questa settimana perché un collega, di cui non farò il nome, non dirò di... però sostanzialmente la sua posizione su Twitter era: chi vota per questo qua è un pirla. E io dico: ma scusa, ma siamo tutti lì a fare giustamente su... A parte che pirla non si dice più da, vabbè, da Mourinho, sono, qua si direbbe Picciu. Ah, è l'equivalente? Ecco. Uno scemotto. No, niente, pirla va benissimo. Anche altre, ma non ve le so dire. Divaghiamo alla grandissima. Ma perché quest'area di Torino? Ma si sta bellissimo qua. Ma perché non torno di più? Ma tu hai studiato, per esempio, tu hai studiato un po' del salone dell'auto? Guarda, non so che ci sei il mio venuto, interesse eh? Per le auto e credo sia equivalente alla pelota basca giocata solo di Mancino. Ma la stampa lo sanno? No, perché lo sanno. Però no, rimedi con la Juve. Diciamo il test drive non me l'hanno fatto la stampa. A proposito, sai qual è la macchina? L'ho letto perché io un po' ho studiato. Ma viola la par condicio? Non lo so, forse che ne so. Ho paura sta par condicio. La più richiesta e corteggiata nel test drive è l'Alfa Romeo Giulia. Ci sono candidate di nome Giulia? Si può dire, non, credo. Non voglio, se ho paura. Però ci sono anche, per esempio, qua davanti abbiamo la Lexus, si può dire? Non, guarda, adesso no, la Torino condicio, si può dire solo auto... Fiat o FCA. Esatto. Chrysler. Io ho detto Alfa Giulia, che comunque è sempre del vabbè, gruppo. Ragazzi, state Jeep. State facendo tutto questo per far tremare, per paura. No, dobbiamo dire tutto, BMW, Mercedes, esatto. Sassyong, esatto. Kia. Va bene. Va bene, ragazzi, sono 17:29. Andiamo, facciamo una piccola pausa. Poi abbiamo il nostro Roberto Pavanello deve andare a lavorare. Ah, lo dobbiamo mandare via? Eh sì, così posso credere. Devo, ma perché tu lavorare? Lavori? Questa è anche una notizia che ci dà. Non lo so, molti miei colleghi non la pensano così. Cioè, tutto io il fair play invece dell'inizio essere... della trasmissione di Daniele Bellasio nei ma confronti no, di Roberto ma dai, Pavanello. Scherziamo. Ma 5 anni che non vedono Boccia. Lo credo che c'è un po' di accredito. L'interista è. Sì, ma l'ultima volta che l'abbiamo vista era una gran boccia. L'interista non so neanche non cosa vuol fare. Dire, ma l'interista non ce la può fare. Andiamo. Va. Allora, salutiamo Roberto Pavanello. Chiocciola Roby Pava, mi piace questo tuo account di Twitter. Quindi buon lavoro, quindi grazie. Torni Marta, alla stampa grazie, a coccolare i tuoi video. Vado a lavorare duramente questa sera, mi becco il turno fino all'1. Oh, quindi direi bene, che ne ho bene, abbastanza. Bene. Allora, adesso fino alle 18 puoi ascoltare noi. Grazie Roberto Ciao. Pavanello per essere stato con noi. Ci noi... Grazie torno. Dell'ospitalità, buon pomeriggio e godetevi Torino. Ah, favolosa! A tra poco parleremo di calcio. Se io non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto fare il benzinaio. YouTube. E siamo ancora insieme con questo RadioTube in diretta dal Parco Valentino, qui dal Salone dell'Auto. Abbiamo l'ultima mezz'ora e mi spiace un po' perché mi sono divertita questo pomeriggio. Mi manca già un po' Roberto Pavanello. Ma della bello, stampa, bello, grande Roberto, nella prima simpaticissimo. Mezz'ora. Non avete neanche indicato tanto per ma il calcio. No, ma figurati, siamo amicissimi. Lo sai questa musica che cos'era? Questo qua, l'inno. Quella che si è sentita prima della tua voce. Questo l'inno, sì, l'inno, sì, tamarrissimo. Perché? Non è un po'. Aspetta, che guardo un attimo Pietro in regia. È tamarro. Ha detto una parola, credo che sia siciliana, perché Pietro è siciliano. Credo che tecnicamente sia un'affermazione siciliana che io non posso. Posso solo mimare alla radio. Sì. No, questo è perché sono iniziati gli europei. La Francia ha vinto 2-1. Invece. Sì. Io non l'ho vista perché ieri sera l'ho detto, ero dai Pù. Ero allo stadio ieri sera. Sì. San Siro, ma a vedere i Pù. E quindi io ho letto su un giornale il titolo, proprio il titolo della storia, in senso interpretalo. Il titolo era Ora o mai Pù. Signor, persino io che amo i giochi di parole nei titoli, persino io ho avuto un leggero friccicore sulla pelle, quasi un brividino. Ma noi dobbiamo parlare di calcio ancora. Sì, abbiamo appena cominciato, peraltro, perché qua parleremo di calcio per un mese. Non so se parleremo d'Italia per un mese, ma parleremo di calcio per un mese. Però tu devi sapere che c'è un fenomeno social, è anche difficile raccontarlo questo fenomeno. Io imparo, Allora me l'ha segnalato appunto un collega giornalista, Gabriele Carrer, quello che prima ho salutato perché passava qua davanti. Perché siamo in pieno centro di Torino, qui non si può Piemonte, non passare di qui. Piemonte, Asti, tutta. Loro hanno creato una sorta di community su Facebook che ha oltre 1.200.000 mi piace, dove in un certo senso loro raccontano il mondo del calcio, quello che interessa a te. Per esempio, che ne so, i tatuaggi, i fisicati, i modi di dire un po' schietto, un po' meno schietto. La vita dello spogliatoio. Chi di noi non vorrebbe vedere il calcio dallo spogliatoio? Allora, chi noi, di noi stiamo dei presenti spiegando due? Cosa fanno loro, ma io chiederei direttamente a loro. Se tu hai spiegato bene. Abbiamo 1,2 milioni di persone al telefono. Cioè no, abbiamo due esponenti, due inventori, due fondatori. Adesso chiederò a loro come si autodefiniscono dei calciatori brutti. E sai che quando io ho detto calciatori brutti in questi giorni tutti mi hanno detto calciatori brutti, ce li hai. Figata. Sì, noi ci siamo arrivati. Allora abbiamo Enrico Modica e Daniele Roselli. Ciao Enrico, ciao Daniele. Ciao a tutti. Ah, che belli. Ce allora, chi è che racconta la storia? Chi dei due? Daniele o Enrico che ci racconta la storia dei calciatori brutti? Sono Enrico, sì, la racconto io. Praticamente nel 2012 io e Daniele giocavamo insieme in questi campi, un po' quelli di provincia, quelli di sabbia, sassi, fango. Ci siamo infortunati tutti e due e quindi abbiamo deciso di aprire questa pagina come valvola di sfogo, perché noi nello spogliatoio eravamo un po' i giullari del gruppo, cioè facevamo scherzi. Facevamo insomma un po' i cazzoni, se si può dire. Praticamente siamo partiti così, con i calciatori brutti, proprio postando le foto proprio dei calciatori brutti. Ma man mano che ci seguivano la gente, siamo andati un po' più sul dettaglio delle partite, sulle competizioni, e siamo arrivati a 1.200.000 persone in 4 anni adesso. Fenomenale. È un numero impressionante. Ma poi sono diventati, posso dirlo, visto che noi le aziende ci stanno, siete quasi un'azienda ormai, nel senso che trovarvi è molto molto difficile, perché siete contattati per fare iniziative da chiunque, quindi è diventata anche una forma di comunicazione innovativa. Esatto, brava. Ma io sono Daniele. Diciamo che per noi definirlo un lavoro non è fattibile in questo momento, nel senso che è talmente tanto una passione, è talmente tanto una cosa che facciamo perché ci piace farla, che non, per carità, non vi nascondiamo che c'è un guadagno dietro, però vederlo come un lavoro ci è veramente impossibile, cioè è quasi una mancanza di rispetto nei confronti della parola lavoro. quindi non saprei dire se è un lavoro, sicuramente è quello che facciamo durante il giorno. Definirlo lavoro non sono sicuro che sia la parola giusta, ecco. Allora facciamo così: uno dei due ci racconta che cosa avete fatto per il Leicester, ho detto bene? Per il Leicester. E l'altro ci racconta che cos'è il fantacalcio ignorante. Esatto. Partiamo da cosa? Dal Leicester. Chi ce lo racconta? Enrico, Daniele? Enrico, Leicester. Sì. Noi a gennaio abbiamo aperto un evento un po' per, anche qui per gioco, abbastanza l'idea malata. Praticamente questo evento si chiamava Macchinata Ignorante per andare a festeggiare lo scudetto a Leicester. E tutti questa l'avete iniziato... aperta quando? A gennaio, fine gennaio. Quando ancora la squadra comunque era terza, stava lottando con le altre squadre per essere primi. E tutti ci hanno detto, no, siete dei gufi. Ma man mano che vincevano... E i partecipanti salivano, cioè alla fine siamo arrivati a 70.000 partecipanti e tutti hanno detto ma allora la fate questa macchinata o siete solo dei qua e l'abbiamo organizzata e siamo riusciti ad organizzare 4 pullman, una quarantina di macchine che sono partite da tutta Italia, 500 persone da Londra e poi tutte gli italiani di Leicester, eravamo circa 2000 persone lì a festeggiare. Abbiamo un video da mostrare alla radio. Vai. ce l'abbiamo. Sì, Ceravolo Drinkwater, Ranieri in nazionale. Partiamo dall'Italia portando l'ignoranza. Partiamo dall'Italia portando l'ignoranza. Con calciatori brutti e birra in abbondanza. Con calciatori brutti e birra in abbondanza. Noi vogliamo Ranieri nazionale. Noi vogliamo Ranieri nazionale. Con Ranieri non ce l'hanno fatta, in nazionale, però davvero, ma dei matti veri dei sono matti. Questi ragazzi. Ma invece il faltacalcio ignorante, lo so che ti interessa, Marta. Sì, perché tu voglio partecipare. Lo so, ma infatti ti riguarda da vicino. Partecipare Daniele, al fanta ignorante. Vogliono partecipare un po' tutti adesso. All'inizio erano tutti un po' scettici perché non capivano bene cosa potesse essere. Diciamo che noi abbiamo due passioni fondamentalmente. Una era quella di vedere tutte le partite per individuare quello coi capelli strani, quello coi tatuaggi strani, il fallaccio, lo sputo per terra, la manata in faccia. E questa è una delle nostre passioni. L'altra nostra passione, come penso quasi tutte le persone che amano il calcio e che riescono a smanettare un po' su internet, è il fantacalcio. E quindi ci siamo detti, perché non unire queste due cose in un unico in un'unica piattaforma che prenda sì le prestazioni in campo, ma non il gol, l'assist o la bella giocata, che vada a prendere appunto tutte queste cose qua, il capello strano, tatuaggi strani, fallaci, eccetera. E quindi è nato il fantacalcio ignorante, non poteva chiamarsi altrimenti, il nome ci è venuto praticamente spontaneo. E è partito adesso per gli europei. La prima partita di ieri ha già regalato un po' di emozioni. Ho visto i più 4 per capelli ignoranti. Esatto. Però stiamo andando in crescendo, perché con Albania-Svizzera abbiamo avuto veramente tanto materiale. E c'è stata l'espulsione di Sana, non so se l'avete vista, ha preso la palla con le mani praticamente al limite dell'area per non far segnare un altro. E lì diventi l'eroe del fantacalcio ignorante. Quando fai una cosa del quanti genere... punti prendi per una roba del genere? Allora, lui ha preso espulsione più 3, poi aveva fatto un fallo prima, sì, è uscito con più 5, più 6 punti. Comunque, una bella performance. Sono soddisfazioni. Beh, ragazzi. Ragazzi, sono stati anche quelli che il calcio, Beh, ma sono diventati famosi. Ragazzi, vi possiamo chiamare ancora in questi europei per vedere come va il fanta ignorante? Perché a me piace assai, io voglio seguirlo questo fanta ignorante. Bello perché c'è un'ironia. Sono bravissimi. Mi piacciono un sacco questi calciatori brutti. Grazie allora. Grazie a Enrico Modica, grazie a Daniele Roselli e ai loro 1.245.166 piacciatori su Facebook. Grazie ai calciatori brutti. Ciao ragazzi. Ciao. Beh, vedi come in sono rete fantastici. Basta un'idea e poi ma la sera sono sviluppi. Sono i numeri uno, ma il fante ignorante. Boom. Ma è che perché non li posso leggere alla radio perché sono una ragazza timida. Non possiamo. No, è perché io sono timida, sì, non posso leggere. Guardateli voi. Una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme. L'ultimo spicchiettino di Radio Tube. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. That was my dilly din dilly don, come on. Radio Tube. tradisco subito la mia età, perché non solo la so tutta, ma so anche tutto il balletto. Ma perché non è la Rai? Sai perché non è la Rai? Compie 5 anni, era 5 anni fa. Sì. Era 10 anni fa. Sì, no, sì. Quanti anni fa era? 25, no, tesoro. Non ci posso credere. 25, mi sento male. Ma quindi Ambrangiolini è grande. Ha vinto anche dei premi cinematografici, poi nel frattempo è cambiato tutto. È un po' forte. No, allora, in realtà il compleanno è tra un po', non è proprio subito, però mi è piaciuta quindi questa cosa perché... Quindi siamo ancora giovani. Sì, vabbè, ciao Pep, come si dice dalle mie parti. Ma perché domani c'è il Non è la Rai Day. Io partecipo. Domani accendo la TV su dalle ore 10.30 fino alla notte. Mediaset Extra fa tutta una maratona di 16 ore. A qualunque ora ti connetti c'è Non è la Rai. Bisogna andare domani mattina presto a fare la spesa di tutta la roba da mangiare per tutta la maratona della Rai. Mi piace molto questa cosa, mi fa sentire allo stesso tempo una vecchiarda. Senti, sai che siccome abbiamo parlato che sono iniziati gli europei, sì, una cosa bella che è successa oggi: se tu prendevi un giornale, sì, un giornale sportivo, non so se lo fai spesso tu di comprare i giornali sportivi. Può capitare, però non è detto, c'era la bandiera italiana, è che è una cosa molto bella. Dicevi che siamo un po' ancora tranquilli, siamo sul chi va là all'inizio di sono questi qua i campionati che mi piacciono, quelli che partono senza troppe aspettative. E indovina che giornale era? E soprattutto indovina di che città è, diciamo, una delle caratteristiche Torino, tutto sport. Oggi se prendi Tutto Sport c'è la bandiera. Una bellissima iniziativa e abbiamo in diretta con noi il direttore di Tutto Sport, Paolo De Paola. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Beh, bella questa idea. È un'idea allo stesso tempo bella e anche con un filo di ottimismo, perché siamo tutti un po' sgonfietti all'inizio di questo come europeo. Come mai? Bah, meglio così. Meglio che, ci possa essere una sorpresa. Solitamente le critiche accompagnano sempre tutte le vigilie delle nostre partenze, delle nostre spedizioni, ma questa ancora di più, anche perché c'è già un allenatore che dismetterà, come dire, dalla nazionale, andrà ad allenare una squadra di club in Inghilterra, e ce n'è un altro che è già stato nominato. Quindi ci sono le premesse, appunto, in questo stato di confusione o di apparente confusione, per poter sperare bene, anche perché io devo dire ho sempre avuto grande fiducia soprattutto nelle arrabbiature di Conte è bello carico, lo si è visto in queste vigilie, insomma, rispondendo ai giornalisti, ma insomma creando una sorta di protezione attorno alla squadra e attorno a se stesso, chiaramente. Come cambia il lavoro di un direttore di un giornale e di una redazione in particolare quando ci sono questi eventi che durano a lungo? Poi quest'estate ci saranno anche le Olimpiadi, nel frattempo c'è anche la Coppa America. Immagino che appunto la vostra di squadra improvvisamente si veda al centro di un super lavoro, di un super creatività. Come cambia rispetto al normale lavoro? Ma innanzitutto nella pratica e nell'impostazione proprio del giornale. Chiaramente si è abituato ad aprire il giornale con delle squadre di riferimento, per noi soprattutto la Juventus e il Torino, quindi invece adesso chiaramente ti occupi della nazionale, quindi hai uno sfoglio di giornale che impegna almeno quasi una decina di pagine, anche con degli ingombri pubblicitari che sono tarati proprio sull'avvenimento. Dopodiché hai, come dire, una riunione che si svolge al mattino presto, soprattutto sui temi legati alla nazionale e all'impostazione appunto del giornale. Solitamente in questo periodo si accavalla anche la questione del mercato, ma la questione del mercato è strettamente collegabile alla nazionale. Faccio un esempio per tutti. Ieri Pogba prima di questa partita era all'onore, diciamo, delle cronache per questa valutazione, ipervalutazione di 120 milioni. Chiaramente è diventato il riferimento immediato della partita con la Romania, però ecco, non ha fatto un partitone, non ha fatto una gran partita, e chiaramente qualsiasi considerazione sul valore, sull'ingaggio, eccetera, dovrà tener conto di questi europei. Io stavo guardando il vostro account di Twitter @tuttosport e intanto vedevo che purtroppo bisogna anche tener conto della cronaca, ci sono degli scontri, insomma purtroppo non si riesce mai a separare il calcio da questi brutti aspetti, ahi noi, penso che ne sentiremo parlare nelle news. Però ho una domanda invece che riguarda i social network, voi come vi comporterete con questi europei, con i social network, perché di campionato in campionato questo aspetto cambia, cresce? Beh, sempre. Io devo dire che sono un affezionato dei social network, anche se non mi lascio travolgere. Io credo che non solo per il tifo, per quanto riguarda ragioni di tifo, ma proprio per quanto riguarda ragioni numeriche, non siano, diciamo, delle cose che soprattutto a un giornale, a un direttore di giornale, ma anche alla televisione, ma anche alla radio, non possono in qualche maniera risultare determinanti come influenza. Io credo che siano determinanti invece come parere, come scambi di idee, sicuramente, certo, quelli che superano chiaramente la barriera della buona educazione sono accettati, quelle che invece stanno al di sotto non sono accettabili, però rappresentano, come dire, in qualche modo un humus, un territorio di confronto. Però oltre, no, ecco, subire troppo il fascino del social, secondo me, è sbagliato. Cum grano salis. Daniele, abbiamo un minuto esatto. No, io avevo questa curiosità, se Pogba resta alla Juve o va via, era così, credo che tanti se lo chiedano. Lo sa il direttore di Tuttosport? Allora, no, guarda, c'è una questione di rimente su tutte, ed è il procuratore di Pogba, per Raiola. Nel momento in cui Raiola riesce ad avere per il suo assistito un ingaggio che si aggiri attorno ai 10 milioni, Pogba andrà via dalla Juve. Ecco, questo è il punto di rimente. Però ritengo che un giocatore come Pogba abbia ancora la possibilità in qualche modo di affermarsi, lo si è visto anche in questa prima incerta uscita con la Francia, e di aumentare ulteriormente il suo valore, perché ancora non è quel super campione che in qualche modo può diventare, per esempio, fra un anno. Grazie mille, direttore Paolo De Paola. Noi dobbiamo salutare tutti. Grazie, buoni europei. Forza azzurri, diciamo forza azzurri, così questa, non c'è, esatto, rischio di par condicio. Esatto, non c'è par condicio. Forza azzurri e forza. Forza Pietro Lacorte regia, forza Marco Lombardo in assistenza qui, forza a Elena Ligios, a Davide Ciocia, a Cristian Goldoni, a Paolo Corleoni che sono stati a Milano, a Daniele Bellasio e ciao, a tutti Marta, quelli che sono stati con noi. Al prossimo sabato.